L'altro pianeta di Laura Bettini. Ben ritrovati per questa nuova puntata dell'Altro Pianeta, nella quale parleremo molto di acqua, ma ancor più di acqua in agricoltura. E diamo subito il benvenuto al nostro ospite e commentatore per questa puntata, Luciano Azzori, che è consigliere segretario dell'Ordine Nazionale dei Biologi e delegato nazionale per Igiene, Sicurezza e Qualità. Benvenuto. Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori. Oggi con lei, Azzori, facciamo un esperimento, diciamo, cioè ascoltiamo insieme l'intervista con Francesco Mutti, amministratore delegato di Mutti, che è una storica azienda produttrice di conserve di pomodoro, che da 3 anni lavora con il WWF per ridurre l'impronta idrica e le emissioni di CO2 di tutta la filiera del pomodoro. L'intervista l'abbiamo realizzata in occasione della 15ª edizione del premio Pomodorino d'Oro, con cui Mutti premia i fornitori più sostenibili. Con lei poi dopo, Azzori, ci soffermeremo sugli aspetti che più le sono vicini per mestiere, quindi quelli del risparmio idrico e dell'acqua in agricoltura. Sentiamo Mutti nel frattempo. Il premio del Pomodorino d'Oro nasce e si sviluppa prioritariamente per generare una sana competizione in quella che è la nostra base agricola, i nostri fornitori di materia prima, per migliorare costantemente le pratiche agronomiche e di conseguenza la qualità della materia prima. Questa è stata l'origine assolutamente del Pomodorino d'Oro ed è ancora l'elemento cardine. Negli anni poi, in modo particolare negli ultimi anni, nelle ultime 3 edizioni, da quando abbiamo cominciato questa partnership con il WWF, abbiamo inserito anche il tema del risparmio idrico. Il risparmio idrico è senz'altro un elemento fondamentale, specie per la parte a monte della filiera. Gran parte della generazione dell'utilizzo d'acqua avviene infatti in ambito agricolo per la normale irrigazione. È lì dove sono maggiormente concentrati i nostri sforzi per ridurre la nostra impronta idrica. Quindi voi, diciamo, collaborate anche per aiutare chi lavora nei campi a ridurre la propria impronta? Assolutamente sì, è un progetto che si è sviluppato insieme al WWF anche con un ambito scientifico come l'Università della Tuscia per andare a comprendere quelle che sono le 3 caratteristiche dell'acqua, quindi la grey water, la blue water e la green water, che sono l'acqua piovana, l'acqua che viene utilizzata per l'irrigazione e l'acqua eventualmente per riportare ad uno stato di normalità dopo l'eventuale utilizzo di sostanze chimiche. I 3 elementi devono essere costantemente misurati, quindi ci andiamo a sviluppare con un'opera di formazione e di sensibilizzazione rispetto al mondo agricolo, perché purtroppo molto spesso l'acqua non è considerata, non avendo un costo implicito importante, un elemento a cui prestare attenzione. Quindi già l'elemento formativo di sensibilizzazione è un primo passo importante. Poi li dotiamo di strumenti di misurazione come le sonde che permettono di ridurre l'utilizzo di acqua in quanto misurano effettivamente l'acqua disponibile, quindi l'umidità disponibile nel terreno a diversi livelli di profondità. E ancora un nuovo strumento che abbiamo messo a punto con l'Università della Cattolica di Piacenza e in modo particolare con uno spin-off, quindi Orta, che è pomodoro.net. Questo consente, attraverso la creazione di un database molto allargato che comprende centinaia di agricoltori, è un progetto che è partito quest'anno, di comprendere quali sono le migliori pratiche agronomiche sia dal punto di vista di utilizzo delle sostanze come fertilizzanti o come eventuali altre sostanze, sia anche dal punto di vista della gestione dell'acqua. Senta, mi viene spontaneo chiedere, voi collaborate, ho sentito, l'Università della Tuscia, l'Università di Piacenza, cioè sono tutti grossi calibri che lavorano in questo ambito agricolo, perché lo fate? C'è ovviamente un tema etico, posso immaginare, ma c'è anche un riscontro poi economico? Allora, in alcuni casi ci sono dei riscontri economici, noi lavoriamo anche sul risparmio dal punto di vista di produzione di CO2, lì sono investimenti che molto spesso hanno poi anche un ritorno economico, a breve o a lungo, a volte non ottimizzante ma comunque giustificato. Dal punto di vista delle risorse idriche la risposta è no. Non c'è un ritorno sull'investimento, è un'attenzione che crediamo debba essere crescente e soprattutto crediamo che un'azienda che si pone come leader a livello nazionale debba lavorare su questi temi. Non possiamo rimanere indietro, non possiamo solamente perché non sono immediatamente economici tralasciarli. Senz'altro è il grosso binomio che oggi come oggi, secondo me, come sistema globale ci stiamo confrontando tra le risorse economiche e le risorse naturali. Dare una maggior valorizzazione alle risorse naturali e non solamente quando queste hanno impatti economici, credo sia uno tra gli elementi di fondo per la sostenibilità nel futuro. Noi avremo molto spesso dei danni, non sto parlando come singola azienda, ma come sistema globale, da una scarsa attenzione all'utilizzo delle risorse naturali, proprio perché non adeguatamente valorizzate. Senz'altro. Sul tema dell'acqua, tra l'altro, penso sarebbe corretto per le aziende avere anche un ritorno sull'investimento. In Italia diamo veramente troppo poco valore a questa risorsa, almeno mi pare, ecco. Poi nel campo agricolo ancora di meno, forse. Sono assolutamente d'accordo, anche perché è uno di quei meccanismi, a parte qualche caso tra virgolette virtuoso, dove uno si fa carico di un problema in quanto lo percepisce, però poi non può andare oltre certe barriere perché rischierebbe di diventare fortemente antieconomico, quindi di gravare di costi il prodotto proprio per questa attenzione. Credo che progressivamente generare una maggiore attenzione, quindi spingere il sistema a dover prestare più attenzione verso quest'area, con incentivi e disincentivi anche dal punto di vista economico, debba diventare una priorità non solo del sistema paese, ma parlerei del sistema globale. Tra l'altro si riallaccerebbe a quel discorso che vedevo lei nel comunicato che faceva, cioè del fare l'agricoltore oggi vuol dire fare i conti con margini bassi, una serie di altri problemi, premiamo chi invece fa bene, ecco, in un senso o in un altro, nella qualità, nei consumi, nella sostenibilità, eccetera, eccetera. Assolutamente, credo sia uno tra gli elementi cardini di una politica agricola evoluta. Siamo passati da una politica agricola che qualche decina di anni fa ci sommergeva di prodotti, sviluppando anche correttamente quello che era un'intensità produttiva. Oggi credo che, senza perdere di vista l'elemento di produttività, si debba abbinare sempre di più un elemento di sostenibilità, quindi ridurre. Ricordiamoci che purtroppo non si parla mai di eliminare la nostra impronta, perché essendo 7 miliardi e qualche centinaio di milioni di abitanti sul pianeta abbiamo delle impronte pesanti, però dobbiamo cercare di fare un numero di sforzi crescenti per essere più lievi rispetto a questo pianeta che ci sopporta tutti. Assolutamente credo che, soprattutto a livello europeo, dove la terra rispetto al numero di abitanti non è infinita, una maggiore attenzione da questo punto di vista ma già la parte politica si è fatta carico, è un elemento cardine, così come forse una maggiore attenzione a livello italiano della gestione del territorio da tutti i punti di vista, sia in termini preventivi che in termini proprio di gestione per il futuro. Che però per ora insomma siamo un pochino indietro, mi pare, almeno sul piano italiano, ecco. Siamo, come sistema paese, siamo un po' indietro, si può fare sicuramente molto meglio. Il bello di essere indietro è che si possono fare tantissimi passi in avanti, ci auguriamo di cominciare a farli in modo intenso e rapido. Anche perché poi i danni, anche a livello economico, ripeto, pur non essendo necessariamente su questo tema il fulcro, ma si riverberanno in modo molto importante, a mio avviso. Un terreno non correttamente gestito nel tempo porta a un inaridimento del terreno stesso. Quindi una gestione con una prospettiva di più lungo termine, di un mantenimento migliore delle condizioni ottimali del terreno stesso, porta a lungo termine dei benefici. Ma è anche questo uno dei motivi per cui avete, come dice, riunito attorno a voi una serie di agricoltori che condividono le vostre scelte, cioè perché si percepiva già questa progressiva disattenzione, impoverimento delle nostre risorse? Ma guardi, senz'altro esiste un likes attract likes, quindi noi vogliamo avere attorno degli imprenditori agricoli sani. Dietro la parola sana vuol dire persone che traguardano non solamente come chiudo quest'anno, ma come mi svilupperò in futuro, non solamente di spremere la terra, ma riuscire ad ottenerne frutti, ma tenendola nelle migliori condizioni possibili, rigenerandola, imprenditori che abbiano delle aziende agricole sane, perché se si vuole fare qualità inevitabilmente occorre avere a fianco dei partner con delle strutture anche economiche sane, e purtroppo non è sempre il caso del mondo agricolo, dove a volte ci troviamo di fronte a situazioni invece di profonda usura anche dal punto di vista economico. Il fatto che noi interveniamo in questo caso su fronte qualitativo con interventi economici importanti è un miglioramento del reddito agricolo che riteniamo estremamente importante e proiettato soprattutto per una generazione presente e futura. Ecco, era Francesco Mutti, amministratore delegato della Mutti. Commentiamo tra poco questa intervista e in particolare il tema dell'acqua in agricoltura con Luciano Azzori, consigliere segretario dell'Ordine Nazionale dei Biologi. Lo facciamo subito dopo la viabilità. L'altro pianeta. E torniamo di nuovo insieme, con noi ricordo c'è Luciano Azzori dell'Ordine Nazionale dei Biologi. Parliamo di acqua in agricoltura, Azzori. Dunque, abbiamo sentito l'intervista a Francesco Mutti, sappiamo che lei è un esperto in particolare sul tema dell'acqua e quindi cominciamo col dire qual è la situazione italiana. Allora, prima di tutto, prima di entrare nel vivo del consumo di agricoltura, vorrei fare una piccola premessa. Tutti quando parliamo di acqua pensano che i maggiori consumi si abbiano all'interno delle mura domestiche. In realtà questi consumi sì, possono sembrare alti, notevoli, ma in realtà sono molto bassi. Pensiamo che i dati secondo l'Istat del 2011 in Italia vengono consumati circa 160-180 litri al giorno pro capite. Può sembrare tanto, ma questi litri di acqua usati ad usi domestici per cucinare, il vero consumo reale, è niente rispetto invece al cosiddetto consumo virtuale, al consumo che noi attuiamo attraverso molti beni, servizi e specialmente il cibo che noi compriamo. Tradotto, il tutto è collegato all'agricoltura. Quindi, in poche parole, la maggior parte dei consumi idrici in Italia, come in molti paesi della comunità europea, è dovuto all'agricoltura e quindi anche e soprattutto a quelle che sono le tecniche di irrigazione. Sì, mi dica. No, prego, il discorso è, mi sembrava avviato sul fatto che dipendendo dalle tecniche di irrigazione forse si può intervenire su queste tecniche. Bisogna intervenire sia sul campo, tradotto nelle tecniche di irrigazione, ad esempio una delle tecniche nella quale si ha un maggior risparmio idrico è quella cosiddetta subirrigazione, quindi un'irrigazione sotterranea che arriva direttamente all'apparato radicale delle piante, non si hanno perdite, si può calibrare, non si ha evaporazione. Ha dei costi di impianto notevoli all'inizio, ma vengono ammortizzati nel tempo. Non è sempre praticabile, ma questo potrebbe essere un inizio. Ma fondamentalmente, più che gli aspetti tecnico, proprio sul campo, io direi che bisognerebbe agire su due fronti. Il primo è la formazione dell'agricoltore. Che poi è un po' quello che fa Mutti, mi pare di capire da questa intervista. È da lodare quanto fa Mutti, non è obbligato dalla legge, è una sua scelta, questo è veramente lodevole come principio. L'agricoltore moderno prima di tutto dovrebbe saper usare tutta quella che è la tecnologia che c'è a disposizione. Io me lo immagino, come spesso vedo in campo con un portatile, e che ha accesso immediato a tutti i dati che vengono aggiornati costantemente. E quando dico dati, intendo dati idrometeoclimatici, agrometeorologia, al cosiddetto bilancio idrico meteorologico o addirittura, ancora più importante, al cosiddetto servizio di ausilio all'irrigazione. Tradotto, ogni agricoltore in tutta Italia, secondo dove è ubicato, mettendo in una determinata schermata la coltura, il tipo di suolo, il metodo irriguo adoperato e gli eventi piovosi del periodo, può tranquillamente sapere quanto e quando deve irrigare, con un risparmio notevolissimo di questa risorsa, la risorsa acqua. L'altro aspetto lo determiniamo noi consumatori, noi a tavola. La maggior parte del consumo idrico lo si ha attraverso l'alimentazione. E noi in Italia siamo passati da quella cosiddetta alimentazione o dieta mediterranea, che ci invidia tutto il mondo, che è già un consumo idrico abbastanza medio-basso, a quella invece iperproteica. Mangiamo specialmente proteine di origine animale, bistecche di maiale, di vitello, per produrre una bistecca di 200-300 etti di peso, ci vogliono migliaia di litri di acqua, non tanto per l'animale in quanto beve, ma quanto per il foraggio dell'animale. Tradotto, noi indirettamente mangiando consumiamo quantità notevoli, quella che prima ho definito acqua virtuale. E questo è un problema, quindi bisogna incidere anche nella popolazione, non tanto nel dire fai la doccia che dura di meno, chiudi l'acqua quando ti lavi i denti, ma soprattutto sull'alimentazione. Eh sì, perché noi consumatori ci dobbiamo sentire responsabili, ma in vari aspetti della nostra vita, non solo quando ci laviamo i denti, ma anche in altre situazioni. Come del resto, sì, le campagne andrebbero fatte rivolte non solo ai consumatori, ma rivolte anche ad altri, coloro che hanno a che fare con l'acqua in altri campi, anche l'industria, per esempio. La campagna, diciamo, di sensibilizzazione fatta dai vari ministeri, ma anche da strutture private, è stata proiettata e indirizzata soprattutto ai consumi domestici, quindi si è avuto, che poi incidono sul 4% dei consumi totali, tradotto pochissimo, e ci ha avuto degli esiti positivi, perché dal 2002, che si aveva un consumo pro capite di circa 206 litri a persona al giorno, si è passati agli attuali 160-180. Se avessimo fatto la stessa campagna rivolta soprattutto all'alimentazione, quindi sempre al cittadino, ma rivolta anche all'agricoltore, forse i consumi sarebbero stati notevolmente ridotti. Forse ci vorrebbe però anche una certa, non solo campagna, ma anche imposizione su certi aspetti, cioè bisognerebbe costringere a consumare meno. Si può, secondo lei? Costringere no. No, io non la vedo così, non lo si può. Limite si possono alzare. Mettere degli obiettivi. Sì, mettere degli obiettivi ci sono sicuramente, ma ci sono anche nelle varie diciamo, regolamenti e direttive della Comunità Europea, che poi recepite nei vari Stati membri. Queste ci sono e c'è una forte volontà, le soluzioni sono state tantissime, dalle pratiche innovative tecnologiche, quelle che gli ho appena detto, dalla formazione, risposte cosiddette socio-economiche, quindi dal punto di vista dei prezzi, politiche, sensibilizzazione degli agricoltori, l'utilizzo di acqua proveniente da altre fonti, si sta molto facendo il riuso, oppure lo stoccaggio dell'acqua che viene nel periodo invernale, cioè si può agire su tantissimo, bisogna avere la volontà e ovviamente dico sempre agire su più fronti, è inutile agire solo sull'agricoltore se poi invece la società richiede molta più carne o molto più foraggio per gli animali, cioè bisogna essere diciamo a muovere un ciclo virtuoso a 360 gradi. Un po' meno schizofrenici, ecco, rispetto a quello che siamo adesso. Senta, la riporto in conclusione su quella intervista che abbiamo sentito prima a Francesco Mutti, perché lì si differenziava, no? Lui parlava di grey water, blue water, green water, insomma vari tipi di acqua a secondo della provenienza, ma c'è anche, introduceva qui anche l'aspetto delle acque che devono essere magari trattate dopo l'uso, oppure che vengono inquinate durante l'uso. E questo è un altro aspetto che lei ha ben presente, e mi diceva prima, bisogna anche lì fare attenzione. No? Sì, l'agricoltura, quando si parla di consumi idrici, in agricoltura tutti sono proiettati solamente all'aspetto quantitativo. In realtà c'è un altro aspetto, secondo me ancora più importante, che è l'aspetto qualitativo. Diciamo che l'acqua, una volta utilizzata in agricoltura, per la maggior parte viene inquinata, quindi la si prende con una un certo dose di inquinamento, che è quello ambientale, microbiologico, normale, e poi la si restituisce alle falde sotterranee o ai corpi idrici superficiali notevolmente inquinata, soprattutto da fitofarmaci, che poi ci ritroviamo nella nostra alimentazione, ma ancor di più dei concimi. Tutti gli agricoltori hanno, per motivi di esigenze pratiche di commercio, attuano la concimazione con i tre elementi fondamentali, l'azoto, il fosforo e il potassio, in periodi diversi, in quantità diverse, ma il più utilizzato è specialmente l'azoto. L'azoto, che è molto importante per incidere sulla qualità del prodotto e quanto viene anche il peso, è notevole come resa finale. Il problema è che i nitrati, finendo nelle acque di falda, poi vengono captati, riutilizzati, ritornano in quella che è la catena alimentare. I nitrati sono altamente, l'uomo, altamente cancerogeni. E quindi bisogna anche limitare, ad esempio la pianura padana, che è la più sfruttata in Italia dal punto di vista agronomico, ha moltissime falde che sono inquinate da nitrati e non possono essere utilizzate a scopi potabili, cioè vengono abbandonate perché il costo per poter eliminare quei nitrati è elevatissimo, quindi si preferisce captare da altre fonti, il che è assurdo. Quindi c'è anche un danno non solo dal punto di vista quantitativo ma anche qualitativo. Poi ci sono anche altri danni collaterali. L'eccessivo sfruttamento delle falde idriche, specialmente questo avviene nel sud, nelle due isole Sardegna e Sicilia, delle falde idriche che sono, diciamo, ubicate vicino alla costa, determina una depressione, richiama acqua dal mastra, quindi poi si ottengono delle falde acquifere con un eccesso di cloruro di sodio, tra l'altro di sale, che non possono essere più utilizzate né a scopi alimentari, né tantomeno, peggio che mai, perché manda vittisce tutte le piante, a scopi agronomici. Quindi il consumo idrico ha dei risvolti, delle sfaccettature molto complicate, e andrebbero viste, studiate e trovate soluzioni in maniera, diciamo, olistica, totale, non prendendo singoli aspetti. Comunque, certo. In ogni caso è sempre da premiare quanto fa Mutti, che già il fatto che ci ha dato l'occasione di parlare di questo tema certo, è importantissimo. Senta, a proposito di questo tema, altri suoi colleghi, diciamo, molto vicini, sono i chimici, questa settimana hanno addirittura parlato di emergenza per le acque della pianura padana, proprio per i motivi che lei stava illustrando poco fa. Le pare che siamo a un livello di emergenza addirittura? Sì, ci sono dei prodotti. La pianura padana è stata utilizzata moltissimi composti chimici come fitofarmaci, che hanno un periodo di semivita che dura anche 30 anni, che sostituiscono lì, stanno chiudendo moltissime fonti, non si può più captare moltissime di queste, o perlomeno si potrebbe, ma l'acqua non potrebbe essere utilizzata. Ripeto, bisogna avere costi-benefici, è inutile che ci sia tanta acqua se poi non la si può utilizzare, perché per poterla portare a norma di legge, cioè renderla potabile, ha dei costi esorbitanti, non ha più senso. Allora si preferisce prendere altre, captare da altre fonti. Quindi è un'emergenza, è un problema serio, veramente serio. È dovuto soprattutto ad un uso indiscriminato, specialmente avuto negli anni passati, di molti agricoltori. Ma posto che quello ormai è fatto, adesso dobbiamo guardare a come comportarci con il presente e cosa fare in futuro. Perché... Perfettissimo, questo ne convengo con lei. Le soluzioni, ripeto, adesso è cambiata anche la normativa per quanto concerne l'utilizzo sia dei fertilizzanti, ma soprattutto dei fitofarmaci. I controlli sono severissimi, non possono essere puntuali, però ad esempio già l'Italia, che ci dimostra che si hanno dei bassissimi residui di composti nei prodotti ortofrutticoli, siamo forse il paese migliore in Europa per questo aspetto, dimostra che già in agricoltura sta cambiando tantissimo. Questo è un buon segnale che possiamo dare agli ascoltatori anche, insomma. Sì, è verissimo. Gli organi di controllo poi sono severissimi in questo. Lei avrà sentito quest'estate il caso della Trazina. È importantissimo. Questo è dovuto grazie al lavoro congiunto della finanza con i vari uffici di repressione frodi del Ministero delle Politiche Agricole, che sul territorio hanno scoperto un uso poi assurdo, indirizzato al biologico, di questo composto che è naturale, perché si estrae da una radice di una pianta, con tecniche naturali, però è più tossico del DDT, tanto per intenderci. Luciana Azzori, io la ringrazio molto per essere stato con noi anche in questa puntata. Ricordo, consigliere segretario dell'Ordine Nazionale dei Biologi, nonché delegato nazionale per igiene, sicurezza e qualità, sempre presso l'ONB. Grazie e a risentirci in una prossima puntata. Grazie a lei e a tutti gli spettatori. Ci fermiamo qui, l'appuntamento con l'altro pianeta è rinnovato per la prossima settimana alla stessa ora. Per scriverci, l'altropianeta@radio24.it. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.